mettere in cantiere una morte bianca, allattata con latte di soia, muore in culla, la tutina blu. Era un maschietto, dunque, ancor più precario oggigiorno di una femminuccia, volendo fare due conti con la mentalità corrente, meglio lui che era tutto dedito al fratello invalido, piuttosto che un colletto bianco che dal suo sportello se ne frega della coda e telefona dal telefono dell'ufficio a un numero verde.